Mix 24 di Giovanni Minoli. Benvenuti a Mix 24. 60 anni fa, il 25 marzo del 57, si firmano i trattati di Roma. Una data storica per la nascita dell'Europa, un progetto, quello di Europa politica, che oggi, con i movimenti anti-europeisti e con la Brexit, viene fortemente messo in discussione. Eppure c'è stato un momento in cui entrare in Europa appariva come un grande sogno per tutti, anche per l'Italia. Nel 1996 Prodi, Presidente del Consiglio, e Ciampi, Ministro del Bilancio e del Tesoro, sono i protagonisti di quella svolta storica. L'Italia riesce a entrare nei parametri fissati a Maastricht e aderisce così all'Unione Monetaria Europea, una missione che all'inizio sembrava impossibile. Fu una strada molto più dura di quello che lo stesso Ciampi aveva immaginato, molto più dura. Lui era convinto che col 3,2% di deficit saremmo riusciti a entrare forzando la mano. Siamo l'Italia, fondatori, 60 milioni di persone, cioè ci lasci fuori per lo 0,2? E invece si capì che ci avrebbero lasciato fuori per lo 0,2. Ne so, pochi colloqui così privati, fatti in famiglia, era lì che in cui poi si sfogava dicendo: è durissima, ma se non entriamo ora non entriamo più. So di non vendere fumo, che quello che fa la credibilità è quello di non vendere mai fumo e di non dire mai cose in cui uno non crede. Io ricordo Carlo, ministro del Tesoro, quando entrava nella stanza in cui eravamo Prodi ed io e ci faceva vedere i dati dello spread, parola che allora aveva un'altra consuetudine rispetto a quella che è oggi. Una svolta importante arriva dopo il vertice bilaterale tra la Spagna e l'Italia, che si tiene a Valencia a settembre del 96. Prodi si incontra con Aznar e prova a dirgli: facciamo blocco noi e voi, Italia e Spagna, e rappresentiamo agli altri partner l'opportunità di prevedere una fase 2 dell'euro, cioè ci può essere una fase 1 nella quale partono Francia, Germania, Olanda e gli altri che ce la fanno, noi insieme entriamo nella fase 2. Il primo ministro Aznar con grandeur spagnola rispose: no, la Spagna entrerà subito. E questa fu la sorpresa di Valencia. Conoscevo la debolezza della Spagna, e che Aznar si è un po' allargato, come si dice in termine popolare. E quindi Ciampi mette in campo la nuova manovra economica, che è molto più pesante di quella che Prodi avrebbe voluto. Così nasce l'eurotassa. La battaglia fu vinta nel momento in cui rientrammo all'ultimo secondo, all'ultima settimana possibile, nel sistema monetario europeo, nel dicembre del 96. E lì Ciampi ha compiuto il capolavoro di tattica e di strategia della sua vita, lavorando ogni ora di tutti i giorni del governo Prodi. Ricordo quando che nessuno ci guardava in faccia, no? Chirac improvvisamente disse: non c'è l'Europa senza l'Italia. Era un giornalista che gli chiedeva: ma l'Italia entrerà nell'euro o no? E lui rispose così. Mi ricordo subito la telefonata a Ciampi dicendo: guarda, è venuto il primo semaforo verde ad altissimo livello. L'unione di circa 300 milioni di cittadini europei suggella la fine di questo secolo con un messaggio di pace. L'Italia è presente a questo storico appuntamento. Tra poco dunque una puntata speciale di Mix 24 in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma. Ma ora, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, 60 anni dai trattati di Roma, e infatti già da oggi Roma è blindatissima. Sì. Il centro off limits da stasera si girerà solo a piedi e pensa che tolgono anche i cassonetti. Beh, sono attesi 28 capi di Stato, ci saranno manifestazioni, una partecipazione dicono di circa 25.000 persone, e in più dopo i fatti di Londra è ovvio che la sicurezza è ai massimi. Certo, appunto. Ecco. Però quello che colpisce, francamente, sì, è che l'argomento di questa settimana, l'argomento che ha catturato l'attenzione di tutto il paese e che continua a catturarla, dalla politica ai giornali, è un altro. Aspettate un attimo, un attimo, perché io su internet ho trovato un articolo che elenca i motivi per cui una donna dell'est è meglio di una donna italiana. Allora, per alcuni. Ditemi. Se siete, beh, certo, per alcuni, ditemi se siete d'accordo. Ecco, era l'argomento trattato a Parliamone di sabato, il programma di Paolo Arperego, sì, che ha fatto molto scalpore, molto discutere, e infatti l'hanno chiuso e lei l'hanno cacciata. Ecco, però scusa, allora sentiamo bene perché sarebbero meglio a questo punto le donne dell'est. Okay. Meglio la donna dell'est perché sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. Abbiamo visto ieri le foto su Instagram di Olga Plachina, che è la moglie di Montano. Ha partorito l'altro ieri, cioè come se avesse avuto un colpo di tosse, di una perfezione meravigliosa. Roberto, stiamo parlando di donne che fanno di lavoro la modella. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, anche secondo me sono geneticamente modificate. Ecco, sono geneticamente modificate. Però è tutto vero. È tutto vero, ecco. Anche tu un colpo di tosse però. Identico. Uguale. Infatti sono un po' dell'est anch'io. Anche tu? Sì. Lo vedremo. Intanto andiamo avanti, come dice la Perego. Sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni. Questo mi è stato insegnato da piccolo. Sì, mio papà me l'ha detto. E cosa tuo papà? Sì. Mio papà. E cosa ti diceva? Allora, mia mamma ha mai portato cibate in casa. Cioè, mai sempre minigonne. Io giro in casa con minigonne. Al mattino mi alzo e cerco, perché io devo... Ho capito, cioè, ecco. Io qui alzo le mani, scusate. Aspetta, scusa, ma tu quando io vai a dormire... per sempre. Tu vai a dormire d'inverno? Fa freddo, a una certa ora spengono i termostati. Ma lui è una stufa. Non so se hai capito, siamo in area protetta. Tu non ti metti mai un bel pigiamone di quelli felpati con i calzettoni che tengono caldo? Ho capito, ma è un lavoro questo. Allora, è un lavoro, però sono sempre sexy per casa in minigonna, tutti i giorni, sempre, comunque, crav. Niente pigiamoni soprattutto. Certo, noi donne del less niente, io vado a netto tutta nuda, imparato. Giù così papà. Vai. Sì, sì, tuo nuda. Papà ti ha insegnato. Anche mamma badante. Tutto ha insegnato a te. Sì. Brava, ma che donna dell'est. Brava, est. Comunque risentendolo, crav, insomma, sì. Insomma, dai. Beh, bruttina l'argomento, beh, lasciava un po' desiderare. Sì. Anche gestita non benissimo, sì, e sicuramente non da servizio diciamo pubblico. Diciamo che gli è scappata di mano. Un pochino, sì. Però c'è anche da dire che il licenziamento in tronco, la chiusura del programma, cioè un paese a dividersi e a scannarsi su pro e contro... Francamente un po' troppo. Beh sì, soprattutto ricordando che l'intervista fatta porta a porta al figlio di Rina, che anche quello... fece insomma con la liberatoria firmata prima che andasse esatto. Porta a porta mi sembra che non sia stato chiuso, o sbaglio? Ma non hanno mandato via Vespa? No, Vespa è ancora lì, e soprattutto quello che vedi ti sembra, ma non sono repliche, ma lui. Dai, sì. Veramente non sono repliche. Vabbè, comunque l'intervista che la Perego ha rilasciato alle Iene l'altro ieri in risposta a tutto questo caos ha un punto che credo sia particolarmente interessante. Gli argomenti Rai vengono approvati prima di essere messi in onda. Da chi? Dal capostruttura, dal direttore di rete. Mi hanno approvato questo argomento e mi hanno cassato il femminicidio perché non volevano che ne parlassimo, perché non era con la linea editoriale. Beh, questa è un'accusa pesante. Prima l'approvano e poi si scusano. Di cosa? Ma di cosa? Ma di che stiamo parlando? Ci puoi spiegare meglio? Loro si sono dissociati da una cosa che avevano approvato e adesso fanno la figura di quelli che stanno salvando l'Italia da questo mostro che è sessista e porta in televisione queste cose. Ecco, scusami, non ho capito. Allora, era stato approvato dal capostruttura, era stato approvato dal capoprogetto e alla fine della fiera salta la conduttrice. Ma quindi come, cioè, l'ultima ruota del carro che dovrebbe essere la conduttrice. Beh. Mi scuso per la ruota del carro, però alla fine è lei che comanda, per cui salta lei. Evidentemente sono a parte che comunque ci sarebbe da dire che poi è il come anche, però comunque evidentemente sono i conduttori a comandare, ci siamo arrivati. Ecco, quindi scusami, qui da noi chi è che comanda? Qui noi. Non comandate voi, qui sono io dalla regia che vi controllo, siete bravissimi, andate avanti e parlate di cose più serie, per favore. Quindi non ci chiudi? No. Ancora andiamo avanti? Vi aspetto venerdì prossimo. Sei sicuro? Certo. Vabbè, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Vai. Nel luglio del 1940, mentre la guerra è imperversa in tutta Europa, una nave carica di civili italiani salpa dal porto di Liverpool, diretta in Canada. Ma viene colpita da un siluro tedesco e nel naufragio perdono la vita 446 persone. Sono vittime innocenti del sospetto e della xenofobia. La nave della vicenda è la Randora Star ed è al centro di Nessuno può fermarmi, di Caterina Soffici, un romanzo in cui la fiction si alterna alla storia, restituendo uno spaccato vivido e reale della comunità italiana a Londra nella prima metà del Novecento. Caterina Soffici, intanto perché gli italiani erano finiti sulla Randora Star? Eravamo nel 1940, quindi allo scoppio della guerra, e c'era, gli italiani erano diventati di colpo nemici. Ecco, ma era stato Churchill a dato l'ordine di catturarli. Collar de Lotte aveva ordinato, prendeteli, sì, per la collottola. Sì, infatti l'hanno presi tutti indiscriminatamente. C'erano delle liste che erano state stilate all'epoca dai servizi segreti. Ma quanti ne sono stati arrestati? No, gli italiani sono stati arrestati tutti maschi dai 16 anni in su, quindi più di 4.000 persone sono state arrestate e internate in campi di internamento dietro il filo spinato. E sulla nave ci sono finiti ebrei che erano scappati dall'Italia fascista, ci sono finiti antifascisti, il capo storico dell'antifascismo a Londra, ci sono finite delle persone che assolutamente non avevano niente a che fare col fascismo, perché ormai tutti quelli che erano italiani a Londra erano identificati come fascisti. È stata questa qui la grande ingiustizia della storia. Tu come hai scelto la storia della Randora Star? Perché non è molto conosciuta. L'ho scoperta per caso camminando per Londra nel quartiere che era l'ex quartiere italiano, Little Italy, a Clerkenwell Road. C'è una chiesa che è la chiesa italiana di St. Peter's, e io camminando, guardando quella chiesa, c'è una lapide che parlava di questa tragedia della Randora Star, e c'era una sfilza enorme di nomi italiani. E quindi niente, mi sono un po' presa un'ossessione di questa cosa, quindi mi sono messa a cercare, a guardare, a fare. Quanti erano intanto gli emigrati a Londra negli anni 40? Londra erano 20.000, ma era una grandissima comunità. Era una comunità dove il fascismo voleva fare un po' una perla, capito? Un fiore all'occhiello. E infatti per quello che c'è stato questo grande malinteso, perché la comunità italiana di Londra era stata molto fascistizzata. C'era la casa del fascio a Londra, c'è ancora, è in Charing Cross. Quindi molti erano scappati dall'Italia per il fascismo, ma poi si erano fascistizzati. Sì, ma poi la cosa stranissima è che, fai conto, tutti quelli che erano iscritti alle corporazioni del lavoro lì, quando il fascismo diventa prepotente a Londra, vengono inglobati e vengono iscritti quasi d'ufficio al partito fascista. Quindi per gli inglesi, gli italiani, anche se erano antifascisti, oppure anche se erano ebrei scappati dall'Italia, oppure anche se erano appunto semplicemente degli iscritti che erano dei sindacati, delle casse mutue, no? Delle cose, diventano, nella loro testa, diventano fascisti. Tu hai scelto una bellissima frase di Tar Ben-Jelloun che hai messo in epigrafe, che è: siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Ecco, la paura dello straniero, quanto ha inciso sulla Brexit, per esempio? Questo è proprio il succo di tutta la vicenda, perché siamo sempre stranieri di qualcun altro, perché la percezione dello straniero che in Inghilterra e a Londra negli ultimi anni era veramente molto bassa, e te lo posso garantire perché io sono 7 anni che vivo a Londra. Adesso con la Brexit non è che le cose poi siano cambiate, non cambierà molto, spero. Quello che è cambiato nel profondo e che secondo me non tornerà più come prima, e sarà molto difficile ricostruirlo. Londra è sempre stata una città multiculturale, delle mille cibi, dei mille profumi, delle mille lingue, delle mille gente vestita diversa, nessuno guardava niente, no? Adesso questa cosa la percepisci, c'è il voi e il noi. politiche. Ma secondo te gli inglesi che hanno votato a favore della Brexit sono pentiti? Una parte degli inglesi che hanno votato per la Brexit sono ancora più Brexit adesso, perché si basano su certi parametri che secondo me sono abbastanza sfalsati. Dicono: vedete, l'economia va meglio, vedete, non è successo ancora niente. Non è successo ancora niente perché la Brexit ancora non è avvenuta. Quello che è successo è che ha dato un boost all'economia inglese è stato il fatto che la sterlina è scesa tantissimo, e quindi questo è ovvio che ha facilitato l'economia momentaneamente. La prima parte che si è pentita secondo me sono i giovani. Molti non sono andati a votare perché sono giovani, perché non avevano neanche capito forse la portata di questa cosa, e adesso sono quelli che ne pagheranno di più le conseguenze, sono quelli che sono più arrabbiati. Caterina Soffici, tornando a Tahar Benjaloun, ma perché noi continuiamo a dimenticarci che siamo sempre lo straniero di qualcun altro? Perché è la paura. La paura vince? È la paura vince. E le frasi che io leggo sui giornali inglesi della destra, insomma, gli euroscettici e un po' xenofobi, sono le stesse frasi che io riporto, infatti sono le frasi vere che io metto nella fiction, il libro proprio è una fiction, io riporto, ho trovato dei giornali dell'epoca che io cito, e si fomentava la paura dell'italiano, gli italiani che sono dagli occhi neri come gli scarafaggi, con le sopracciglia scure, che non danno lavoro agli inglesi e fanno lavorare soltanto i loro compaesani italiani che chiamano dall'Italia. Cioè, sembra cose che puoi leggere oggi. La storia si ripete. La storia si ripete, e purtroppo non impariamo niente, perché quello che sta succedendo in Europa in questo periodo è una deriva pericolosa. Grazie Caterina Soffici, nessuno può fermarmi. Feltrinelli. Grazie a voi. Occidentalis, mamma, ormai sì. È ufficiale, quindi questa è la nostra sigla delle smamme. No, non hai capito, io sono dell'est. Allora hai sbagliato sigla però, amore mio. A proposito dell'est, di donne, di mamme, sì. E smamme, quando è l'ultima volta che hai bevuto una vodka, Fiori? A parte che certe domande non si fanno. No, sì, puoi anche non rispondere. No, le domande rispondo... Minori insegna che si fanno. Io sono una persona coraggiosa, quindi ti rispondo. L'altro ieri sera. Brava. Grazie. Allora, ho trovato un blog che fa per te, perché si chiama... Sì. C'era una vodka. Beh, ora c'è una mamma che ha bisogno però di un drink. È scritto da una mamma che scopre di essere incinta, poi diventa mamma, e scrive che non si sente tanto mamma e neanche tanto bene. La capisci? Beh, è complicato. Il tunnel della gravidanza, la post-gravidanza, appunto. E dell'alcolismo insieme. Cioè, sono due cose complicate, sì, sì. Ecco, sì. Da questo blog è nato anche un libro che inizia così. C'è una cosa che dovete sapere. Le pessime madri non esistono. O meglio, non esiste un solo tipo di pessima madre. Che tu sia una mamma smart, pronta a lasciare la parola ai nonni, alle babysitter, allora tanto vale riderci su. Perché questo manuale di sopravvivenza per pessime madri è un libro che racconta da mamma a mamma la verità sulla maternità. E la cosa più bella è che ti dice: essere una pessima madre... in realtà è il modo migliore per sopravvivere ai tuoi bambini. Ah beh, è un po' autoassolutoria, però è molto utile. L'antisenso di colpa. Esatto. Secondo te ne ho bisogno? No, però fatti una vodka. Che no? C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi. E tu fin da bambino te le bevi. Oh, i giovani d'oggi valgono poco. Gli anziani cosa ci hanno lasciato? Luciana delle Donne Leccese, un passato come manager in banca, è stata la prima a realizzare un modello di banca online. All'apice della sua carriera decide di lasciare tutto e dedicarsi a un nuovo modello di business sostenibile, dove tutti possono vincere. Così sceglie il carcere e crea Made in Carcere. Che cos'è Made in Carcere? L'idea di Made in Carcere è quella di dimostrare che si possono fare delle cose belle anche in contesti come questo. Ecco, che cosa fate voi? Noi raccogliamo materia prima di scarto che gli altri non usano e che diventa per noi una cosa importante, e poi dopo un brevissimo periodo di formazione, perché facciamo cose molto semplici, riusciamo ad inserire delle donne detenute che lavorano, imparano un mestiere che non è solo quello della sartina, ma è quello di lavorare con metodo, con responsabilità, quindi acquisiscono la consapevolezza. Noi produciamo buste in tessuto, buste, tasche, borse, package per gli eventi. In due parole, facciamo gadget etici personalizzati, un invito alla consapevolezza, sia per chi ha sbagliato e sta ricostruendo la sua vita, la sua cassetta degli attrezzi, e sia per chi si avvicina a questo mondo e deve capire che, oltre al fatto che possa capitare a tutti di fare degli errori, che aiutando le donne che sono in carcere aiutiamo noi stessi, perché l'80% delle persone che lavorano in carcere non tornano più in carcere. Luciana, quante sono le detenute che sono coinvolte nel tuo progetto oggi? Oscilliamo dalle 10, le 15, le 20, ma abbiamo toccato anche punte di 80 persone. E il discorso è che dipende dalle commesse. Luciana, ma chi vendete questi gadget fatti appunto di tessuti riciclati? Aziende che fanno raccolta fondi, per esempio, e che aiutano ad aiutare, perché l'idea è quella di avere un bellissimo oggetto che ricorda una buona azione. Quindi abbiamo venduto a Libera, a Slow Food, ad Ant, ad IRC. Senti, Luciana, ma quanto è stato difficile coinvolgere le istituzioni per questo progetto? Il problema è avviare il progetto, perché devi acquisire la credibilità che stai facendo una cosa seria, che ci credi veramente. Certo. E chiaramente la polizia penitenziaria all'inizio c'è diffidenza, sia da parte della polizia, magari anche un po' di diffidenza dalle donne in stato di detenzione, però poi con pazienza cerchiamo ci si di riesce. Convincere. Sì, bisogna soltanto essere molto tenaci e molto umili a capire che dall'altra parte, se non riesci a conquistare la fiducia, non riesci ad andare avanti. Luciana, oggi Made in Carcere coinvolge anche carceri minorili. Qual è il progetto, sì, legato ai carceri minorili? È un bellissimo sogno che io avevo da tanti anni, quello di riuscire anche ad incidere sul cambiamento di queste persone che hanno molti, molti più disagi, perché una donna ha acquisito la consapevolezza, ha creato un danno e lo sta ripagando. Il ragazzo ha bisogno di interventi diversi. La nostra idea è quella di fare dei biscotti e quindi spaziare dal tessile al cibo, e facciamo dei biscotti senza uova e senza zucchero, con prodotti di altissima qualità. Luciana, purtroppo, tu hai detto il mio sogno è quello di, sì, trasformare il PIL, cioè il prodotto interno, sì, lordo, in BIL, cioè benessere interno lordo. Cioè oggi noi parliamo di PIL, no? Prodotto interno lordo, sì, ma non si lavora più sulla valutazione, sul monitoraggio del benessere che si genera. Secondo me la nuova frontiera della ricchezza è dare e darsi. Luciana, grazie mille, grazie e in bocca al lupo. Grazie, e mi raccomando, Made in Carcere, abbiamo lo store online e speriamo di riuscire a realizzare questo grandissimo sogno ad occhi aperti. Bene, Krav, sì, ci siamo. Anche oggi ci dobbiamo salutare. Sì, e forse ci vediamo venerdì venerdì prossimo, non lo so. Vi vedete. Ah, ci vediamo, dicono che ci vediamo. Ha detto sì. Ma ho scoperto poi questo tuo lato della donna dell'est che mi ha molto colpito e anche un po' entusiasmato. Anche a me. Però adesso vi ricordiamo che a 60 anni dalla firma, subito dopo la pubblicità, faremo uno speciale dedicato ai trattati di Roma.